realtà è l'Italia del futuro. Un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. No, for us, the, for us, per noi, ok, my English is absolutely incredible and beautiful, but the real reason is the terror of my spokesman is exactly the answer will be in English. We are destroyed now. So Filippo, I will speak in Italian. Are you happy? Yes. La posizione del Presidente del Consiglio sull'operazione Mediaset Raiway e se c'è stata una comunicazione preventiva. Proprio una questione di stretta attualità di politica estera. What, the first question? Very emotional moment of internal politics. Very, very emotional. Ahimè, se invece una persona ti guarda male, ti vorrebbe picchiare, dice ahimè. Mediaset e il mercato, credo che dovrete abituarvi a considerare le operazioni di mercato per quelle che sono. Non operazioni politiche, ma operazioni di mercato. Il governo ha messo delle regole sul Raiway che non intende modificare, e sono le regole che riguardano il 51%. Allora, con questo inglese non va bene, caro Matteo Renzi. O non parli più inglese, o parli inglese, o ti applichi, ecco. Do you speak English? Allora, cari ascoltatori, alle 6:31 minuti è venerdì. E questa è una notizia che ogni venerdì diamo con grande enfasi. È venerdì. Per molti so che è un momento di gioia pensare che domani ve ne state in panciolle. No? È venerdì. Sono le 6:31 minuti. Ah, è il giorno in cui si chiude la 95esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Sarà la 96esima, forse quella buona. Stiamo a vedere, sempre con grande entusiasmo, ottimismo e voglia di farci stupire. Sì. Allora saluto Lorenzo Nespoli in redazione, così come il nostro Peter Bescapè in regia. Guardate che oggi c'è un grande ritorno, due grandi ritorni posso dire, uno settimanale, uno c'era già questa settimana, ma il momento è caldo. E poi c'è un grandissimo ritorno, pronto a ritornare e a ritornare. Vabbè, insomma, dice, sto delirando. Apri il Parlamento, va Peter Bescapè, ti voglio subito presentare i miei ospiti. Vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo. Oh, il ministro Boschi, che ieri è stato citato anche da Dino Zoff. Voi dite, ma che c'entra? Tra poco sveleremo tutto, Dino Zoff. Eccolo qui, il graditissimo ritorno. Voglio salutare Paolo Del Debbio. Buongiorno, caro Milan, come va? Bene, torna ed è pronto a ritornare. Ho visto un promo l'altro giorno, se queste cose che girano in TV per lanciare dei programmi. E ieri promo, sì. Sì, si chiama promo, no? lo spiegavo a beneficio di tutti. E che dire, martedì ore 20:30 dalla vostra parte, nuovo programmino tutti i giorni dalle 20:30 alle 21:15, sempre su Rete 4, ma rimane il lunedì, il lunedì rimane. Certo, il lunedì rimane. Quindi proprio, ragazzi, straordinari, Paolo Del Debbio lavorerà, quindi per lui non c'è più sabato e domenica, dice, è venerdì. Noi si lavora. Si lavora sempre. Sempre fatto. Da martedì. Fortunati noi. Sì, certo, questo sì. Questo assolutamente. E caro Paolo Del Debbio, sai chi abbiamo chiamato qui al Parlamento insieme a te? Non ne ho idea. Non ne hai idea. Sarà l'aurora. Eh sì, Aurora Lussana. Ecco. Ma che onore. Introdotta sempre dal grande Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti. Buongiorno Milan, ovviamente un caro saluto a te, un caro saluto a Del Debbio, un caro saluto agli amici di Radio 24 e siamo tutti pronti per domani, sto finendo. Non ho capito, non saluti gli amici di Radio Padania, libera? No. Aspettavo. Aspetta che ho appena passato Sammy Varin che sta lanciando l'ultimo appello per Roma. Ah, l'ultimo appello. Io ti ho preparato la schiscetta per il trasfertone, praticamente pronto. Trasfertone, tutto. Capito Del Debbio, domani Aurora Lussana è a Roma, perché sono tutti a Roma, È pronta con il trasfertone, eccolo qua. Ma sul torpedone questa canterete, Forza, dai, Aurora, tutti in torpedone. Allora, no, mi manca una roba da finire che non è ancora pronto, la polenta brustolita, ma poi c'è tutto praticamente. Porca miseria Del Debbio. Mi raccomando, Aurora, non te lo dimenticare. Te lo vedi in torpedone Del Debbio con la polenta brustolita. E sopra un bel po' di formaggio che cola. Sì, no, poi abbiamo le alborelle in cartione, un po' di nervetti. Questo verso le 5:30, a che ora? Sì, alle 5:30 del mattino, tutto ovviamente innaffiato da abbondante vino. Allora, i pullman dalle valli bergamasche partono a mezzanotte stasera. A mezzanotte? Ma cos'è la marcia su Roma, la presa di Roma, il sacco di Roma? Sarà una giornata di popolo, infatti saremo in Piazza del Popolo alle 3 e dimostreremo che il nostro paese è fatto anche da un fronte popolare antirenziano, ben rappresentato da Matteo Salvini. Sì, sarà, come dice lui, il pueblo, cioè, allora com'è che fa Salvini? Numero uno, artigiani, pensionati, commercianti, esodati, allevatori e produttori del latte, perché visto che ieri Matteo Salvini come la Le Pen è andato tutti a Roma, tutti a Roma. Ecco, questa roba è tutti a Roma, una giornata con mamme, papà, passeggini e quindi quelli che chiamano Zecche Rosse, ma noi non li chiamiamo. Vabbè, ma io vorrei capire da uno che queste cose le analizza. Paolo Del Debbio, che cosa, cioè, è il momento di una manifestazione del genere? Cosa sorti? Che effetto sortirà? Sì, si riaduneranno, no? Via Renzi. Un effetto interno sicuro alla Lega, di rafforzamento, di identità. Poi loro sono festosi quando fanno le manifestazioni, quindi per loro partire a mezzanotte è una festa, perché è come ritrovarsi appunto con gli amici come ha detto la Lussana, il popolo, in questo e negli altri partiti c'è di meno, no? Questo è vero, la Lega è sempre stata un partito... È molto festosa, è molto amichevole fra di loro, si sentono un popolo, si sentono... tutti, insomma, uniti, tutti uniti, l'identità in politica non è una roba da poco, Sì, sì, certo. E quindi questo è certamente rafforza l'identità. Secondo, è anche un segnale che c'è un partito che fa opposizione, che non c'è solo Grillo, e che vanno lì e tra l'altro dicono delle cose, perché poi alla fine Salvini fa anche delle proposte, si possono discutere, ma sono proposte. Sì. Grillo va lì e non propone un bel nulla. Eccola là. Vabbè, ma però avete sentito che litigano tutti? Hai visto, Paolo, che litigano Salvini adesso anche con Berlusconi? Si è già rotto il patto degli spinaci, no? Sai che avevano fatto il patto degli spinaci. E tra l'altro Berlusconi ha detto: Salvini è inaffidabile, fa il gioco del governo. Che dobbiamo fare? Fa il gioco, cioè Salvini fa il gioco del governo. Sì, questo avrebbe detto Berlusconi. Hai capito? E non lo so, di sai, sono accordi appunto di spinaci, quindi lo spinacio è rimasto di traverso. È dissolubile, è biodegradabile, si perde in nulla nell'ambiente, capisci? Non è la crostata o il Nazareno. Insomma, sono parti più consistenti. Sì, gli spinaci no, che... non lo so. Cosa mi hanno messo sotto braccio di ferro? Ma non è quella storica di braccio di ferro. Braccio di ferro ce n'è una. Cristina D'Avena. Taylor Band. Sì, esatto. Quindi ha messo la versione di Cristina D'Avena, capisci? Cristina D'Avena. Vabbè. Cara la Aurora Lucia. Io semmai, dai. Vuoi cantarcela? And Poppy the Sailor Man, basta. Va bene, ho capito. La useremo ovviamente. Poppy the Sailor Man. Grande, grande del Debbio. Ci ha fatto questo cadeau che ovviamente manderemo in giro a questo punto. Dai, è un jingle. Primo mattino. Eccolo, senti. Altro che Cristina D'Avena, eh. Vabbè, ovviamente certo. La voce è uguale. Sì, esatto. Aurora, che succede? Litiga con Berlusconi, caro Salvini? Il patto dello spinacio si è rotto? No. Salvini oggi fa una bella intervista e spiega bene che lui... Strano, oggi impegnato... fa un'intervista. Spiega bene che lui adesso è impegnato sulla manifestazione di domani e sulle prossime regionali, la Lega ha già i suoi candidati, tutti personaggi validi legati al territorio, e ieri, siccome era in Toscana, gli hanno detto ma qui Verdini, Forza Italia, ha soltanto detto c'è un fronte anche lì popolare dentro Forza Italia in Toscana che non ha mai inciuciato col PD, quindi ci appelliamo a questa parte autentica, genuina di Forza Italia per la palingenesi del centrodestra e del Debbio, che è tanto carino e tutto stamattina, che fa le sue analisi, che condivido, però diciamolo, mi sta creando un grosso problema. Cioè? Lo diciamo? Cioè? Allora, io lunedì sera, tutti i lunedì sera, ho la sezione della Lega Cantù. Giusto. Ah. Che cosa mi fa del Debbio lunedì sera? Quindi ci colleghiamoci. Mi invita Matteo Salvini e io ho i leghisti che stanno a casa a vedersi Rete 4 del Debbio. Porca miseria, del Debbio, del Debbio, cioè praticamente gli hai fatto disertare la sezione. Ascolta, le soluzioni sono due: o cambia il giorno per la Lussana, oppure. Sì. E per Cantù, oppure ci colleghiamo con Salvini da Cantù e da Lucia. Vabbè, la responsabile di Berlusconi è lanciata l'idea, che risolve subito i problemi con la Lega. Ma c'è, scusa, però quindi tu voglio la polenta, quella lì arrostita, abbrustolita. Ma infatti, ma presentatevi come nelle sagre, come quel programma della Rai, quello dove mettono poi tutto da mangiare, ma no, quello della Clerici, quello della domenica, come si chiama lì, Linea Verde, no? Preparate una roba così a Cantù per l'arrivo di tutta la troupe di Del Debbio e niente, fate così. Accogliente. Quindi no, effettivamente, cioè, ma ti hanno detto, scusa, Aurora, lunedì c'è il Salvini però in TV? No, l'ho scoperto io, che la gente non mi è venuta in sezione perché stava a casa a vedere Salvini da Del Debbio. In quel caso cosa? No, però è interessante capire, cioè in quel caso cos'è? E tu gli puoi fare una reprimenda sarei pronta anche alla giustificazione, dai. Se sono stati. Vabbè, ma sapete, ecco, ho citato Dino Zoffa, è presente del Debbio? Ricordi? Non lo ricordo, sì, mitico. Mitico, è intervenuto quando un giorno giocava a carte con Pertini, no? È lui. Sì, certo, con Pertini, poi chi giocava? Berzot, Pertini, il quarto, forse era il buon Scirea. Scirea, bravo. Sì. Allora, dopo che abbiamo vinto il campionato del mondo del 1982, Zoff, ieri a un giorno da pecora, ha fatto la sua nazionale, sentite soprattutto il nostro mito, Maria Elena Boschi. Ma Renzi centrocampo perché parla, quindi dirige, fa, e Salvini in panchina. Bravo. Mattarella presidente. Chi? Maria Elena Boschi? Insomma, la cheerleader. La cheerleader, no, vabbè. Non ci sono neanche da noi cheerleader. Vabbè, ho capito. Una roba dell'America, le cheerleader. Ti devi ingelosire anche su questa, non ho capito? Del Debbio, tutte le volte che cito Maria Elena Boschi si ingelosisce Aurora Lussana. No, ma qual è il problema? No, ma lo so che tu hai questa passione per la retina, non, e te la lasciamo. Ma non ho una passione, ma non è vero che è una passione, no? Ma non dire, cosa c'è? Sei indurita. La madre riformista. Ah, sento, niente, del debbio. Appena citi Mariana, dici vado a fare un giro per il bosco, e l'Aurora Russana subito si intesa. Beh, ma te però, scusa, non ci devi insistere, cioè, non voglio dire, ma parliamo del ministro. Sulla sensibilità, sugli affetti, sulle cose, cioè, Milan, io mi meraviglio abbastanza, questo ritorno qui al mattino, ma mi meraviglio, hai perso sensibilità, no, cioè, non so, ma... ti sei bruciato la mano, forse hai perso la sensibilità, che hai fatto? Ma no, ma quale sensibilità? No. Ma no, è Aurora Lussana che tra l'altro, tu a proposito, ma tu la sai la notizia, caro Del Debbio, perché manchi un no, po' qui. Purtroppo no, purtroppo no. Aurora Lussana si sposa. A giugno. Non ci posso credere. Si aspettate, sposa. Aspettate, se non mi bocciano il corso per fidanzato. Sì, si sposa a Cantù, ma in chiesa. Beh, in chiesa. Subito di quinta colonna. Esatto. Guarda che quello è bello, seguire quel matrimonio. Guarda che ci sarà una tribù mica male, secondo me. No, ragazzi, no, voi scherzate, però non vorrei mai che mi bocciassero al corso per fidanzati, e quindi ho ancora un po' di lezioni da superare. E, insomma, ecco, ma per esempio, una curiosità prima del traffico, ma al corso per fidanzati, questa storia della passione per l'amore ancestrale, le orge, non è che magari l'hai tirata fuori, no? No, ieri sera abbiamo parlato del sacramento del matrimonio. Appunto. Ecco. No, cioè non perché... Occhio perché le cose paniche non vanno molto d'accordo, no, con le cose cristiane. Cioè, esatto. Ci furono già delle eresie, esatto, anche dei roghi. Cioè, non vorrei che tu finissi su una pira ancora, invece che su un altare. Esatto. Però alla fine dei cadere, dei pastori, gli eresi... Come la polenta, fanno la polenta a Bruzza. Stai attenta. Io, se ti possiamo dare un consiglio, io e credo anche interpretare il pensiero di Del Debbio, non tirare fuori quelle storie lì. Non mi sia, perché sai che poi dobbiamo venire lì tutti e due a spiegare al parroco che no, dai, ma sono l'amigdala. Una puntata, Madonna. No, infatti, guarda qua, se c'è da farne una da Cantù, una per il matrimonio, una col parroco per spiegare le robe, dai, su. Praticamente la scaletta delle prossime due mesi del programma di Del Debbio è fatta. Va bene, dai, andiamo al traffico. 24 mattino. Popolo italiano, Parlamento italiano, certi magistrati, certi giornalisti, io li lascio cadere come un ferro rovente. Io dico una cosa, perché non sosteniamo questa persona che sembra brondola? Questo della Lega, Salvini, dateci un posto dove può rubare di più, così non parla più. Lo sembra ogni sera in televisione e poi si sente il bello, ma non è nessuno. Sento la trasmissione gente che si arrabbia, che vuol prendere l'accetto, i forconi, motozap, cannoni, crema. Ma che c'è di più bello della vita? Di fare l'agricoltore? Tutti si arrabbiano, ma chi ve lo fa fare, ragazzi? Salve, sono il controllore del tram che il presidente Mattarella ha preso a Firenze. Vi assicuro che nessuno ha pagato il biglietto. Senti un po', però dimmi un po' all'amica tua Lussana che la vanga è pesante, dopo una giornata di vanga sul campo non credo che potrà fare più l'amore orgiastico, salutamela tanto. Hai capito, cara Aurora Lussana, il nostro contadino di Terni, il nostro contadino di Terni, tu che hai detto... Ah già, è vero, perché io sono partito dalla vanga, hai detto, badile, bravo, lui è quello della zappa, no? Che... La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg. A Zappalucampo, e tu hai detto sono del partito della vanga, e poi l'amore orgiastico non si può fare. Va bene. Allora, però, che cosa sta succedendo? Adesso riprendiamo un po' il controllo serio. Allora, intanto ci segnalano Del Debbio che il quarto era Causio e non Scirea. Causio. Ce lo segnala Alessandro da Grosseto, era Causio, il grande. Allora, se litigano Salvini e Berlusconi, litigano anche di là Renzi. Ma Del Debbio, ma questo Renzi, tu che l'hai invitato, l'hai visto anche due o tre volte di recente, ma è davvero uomo solo al comando, faccio tutto io, e come dire, legittimato dalle vittorie alle europee, eccetera, dal controllo del partito, sbaraglia tutti, dice, chi se ne frega, Bersani non viene in riunione oggi, e chi se ne frega, non c'è problema. Sì, sì, ho l'impressione che sia veramente così. Io non so, indipendentemente da come si giudica il suo operato, diciamo così, sì, ho l'impressione che abbia in testa ormai questa cosa che si gioca al tutto per tutto, mm-hmm, e che va avanti comunque. Cioè, ma è rischiosa questa cosa? Perché molti dicono, molti dicono, guarda che è rischioso, cioè l'uomo solo al comando, voglio dire, non è che... Sì, è rischioso, che alternative sa? Insomma... Quindi a quelli che ti dicono è rischioso, quali sono le alternative? Con chi si allea? No, no, allea, però anche il suo stesso partito ha contro, almeno in parte. E che deve fare? Viene a compromessi? Cioè, no, fa... No, chiedo. No, secondo me fa bene a far così. Come farebbe bene a far così se Salvini un giorno fosse premier, se ce la facesse, se trovasse le alleanze? Cioè, non è che... Cioè, io dico questo. Tutti in Italia dicono... da anni bisogna decidere. E lui decide. Allora, è uno che se non altro decide, d'accordo? Deciderà in modo sbagliato. La Lussano ti potrebbe dire, secondo me di tutte non è azzeccata una, però non potrebbe dirti è una che non ha deciso. Vediamo un po'. Lussana che lo definisce come il dittatorello, no? Come un po', no, tutto. Il principe fiorentino. La signoria fiorentina. Però il metodo, cioè dice Del Debbio, guarda che anche Salvini fosse in quel ruolo lì, farebbe così, cioè è legittimato comunque. Dovrebbe fare così. O vai a casa, capito? L'hanno dimostrato. Il Berlusconi e Prodi, che quando si sono messi a mediare, infatti pare che Renzi abbia detto, ma dove vuole andare Bersani, che vuole fare il Bertinotti del 2015, Aurora? Sì, no, diciamo che il ragazzo è assai spregiudicato e forse anche apprezzato nel suo bullismo istituzionale, perché alla fine dà l'idea di uno che le robe le fa, e anche in maniera assai, diciamolo pure, assai convincente, perché voglio dire, quando poi sbatte la porta in faccia anche ai suoi uomini, quando oggi dice voglio controllare la situazione, dà l'idea di uno che il controllo ce l'ha della situazione. Detto questo, la complessità in politica non si risolve con degli atteggiamenti un po' così spettacolari, un po' teatrali. Eccoli. Ci vuole più la pacatezza di un Salvini, un più l'equilibrio di un Salvini, capisci? Del Debbio, sì, no, questa parte della Russia la dimentico, è come la roba parrocchiale. No, invece voglio dire che è una cosa che anche la Boldrini, no? Sarebbe come se un arbitro in campo c'è stata la partita e poi poi dice a fine partita. Ma doveva rispettare di più le regole. Cioè, ma cosa vuol dire? Dice, ci vuole più regole per l'opposizione. E costruisci queste regole per l'opposizione, datti da fare. Dice, io mi sto concentrando sul regolamento. E concentrati un po' di più. Cioè, che vuol dire questa cosa? Sì, siamo in Italia, tutti attenti al regolamento. Sì, però, allora, la sua ambizione... La Milan dice che sono una massa di cavolate quelli che vengono dette. Rispetta le leggi, rispetta i regolamenti, decide. Ben venga che decide, capito? Se arrivasse uno che fa qualcosa che non condivido, ma che lo vedo deciso, che va avanti, eccetera, lo apprezzo, hai capito? Lo apprezzo. Sì, anche se l'ambizione, la scalata e tutto il percorso in questo ultimo anno. Ma la politica è ambizione, no, ma invece no, è l'altro. Ma sai che cosa gli manca? Gli manca un sigillo sacrale. perché doveva dare. Ho capito, ma dai un po'. La verità è che è un po' rosichi. Se fosse Salvini farebbe uguale. Se piglia i voti, sì. Appunto. Ho capito, le amiche pigliate. Ah, le amiche pigliate. C'è questa cosa, non le ha pigliate, effettivamente. Non le ha pigliate. Ha già detto, è il Parlamento che incarica il governo nella nostra. Vabbè, ma no, adesso non facciamo lezioni di Costituzione, perché sennò. Ma il sigillo sacrale, io farei capire un po' di più. Comunque ne parliamo un'altra volta. Sì, ne parlate lunedì dopo in collegamento da Cantù. No, dopo che è sposato. Dopo che è sposato. Sì. Lasciamola prima sposare. Se passa. Comunque Di Pietro è più preoccupato da Renzi che da Berlusconi. Questo è forte, eh? Se Di Pietro è più preoccupato da Renzi che da Berlusconi. Ma perché Renzi e Berlusconi non fa più audience, se ne parli. Invece Renzi sì. Senti qua. Noi dobbiamo cominciare a pensare anche oltre di lui. Qui io ho più preoccupazione di Berlusconi che ci stanno in giro in questo momento. Cioè, nel patto di Nazareno mi fa più paura il giovane che il vecchio. Giovane del vecchio, è giovane, se tanto vi da tanto è Renzi. Vabbè, Aurora Lussana, qui è tutto pronto. Tra meno di 24 ore partono i primi pullman per Roma. Sì, allora, gli ultimi aggiornamenti. Allora, sì. Ci fosse in ascolto qualche ritardatario, sì, che avesse che ascoltare qualche l'informazione di Radio Pagani, sì, ascolta Radio, sì, 24, così incidentalmente, può collegarsi sul sito www.renziacasa.com, trova tutte le informazioni. Avete fatto anche il sito. Assolutamente sì, puoi anche acquistare la maglietta online. La t-shirt viene 6,50 euro. Senti, per 4,50 se ce ne regali una per 20. Marino deve stare anche lui lì tranquillo, sì, sul Campidoglio, però una manifestazione pacifica nonostante qualche, lo sai anche tu, qualche esaltato della militanza antirazzista, solita retorica sull'immigrazionista antileghista. La Lega, tu sai, ha messo anche lì tanti soldi in una sorta di cauzione, insomma, in caso di Roma ladrona, la Lega non perdona, sì. Eccola, e qui quindi siete tutti invitati. Un'assicurazione di 1,5 milioni. Un milione e mezzo. Dove li avete pescati questi? Vabbè, e mi auguro che ci sia ancora qualche. Vabbè, potevano servire per far andare avanti la Padania. Vabbè, ma noi non riapriamo queste polemiche. Vi devo salutare, grazie del debbio. Allora, lunedì normalmente Quinta Colonna, e da martedì alle 20:30 su Rete 4, dalla vostra parte. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Ciao. Mi spiace Brescia, mi spiace, ma io amo il Milan. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Forza, cari italiani, anche voi debosciati, che è venerdì. È venerdì, come dico sempre, al venerdì. E la 95esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province volge al termine, volge al desio. E che dire, la 96esima sarà quella buona? 96, oh, 95 settimane, guarda che sono tante, dall'inizio della legislatura, perché mi dico, ma da quando le conto? Dall'inizio della legislatura, da quando l'allora premier Enrico Letta disse aboliremo le province. E poi la riforma elettorale, sì, faremo, la cambieremo, la legge elettorale. 95 settimane, due presidenti del Consiglio per ora si sono succeduti. E siamo qua a contare, fiduciosi, nella 96esima. Oggi parleremo un po' di ISIS. Avremo ospite Fiorenza Sarzanini del Corriere, torna a trovarci, così come torna padre Samir, Khalil Samir, gesuita, esperto, uno dei massimi islamologi al mondo. e avremo ospite anche l'ex presidente della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli. Sapete chi è? È colui che, interpellato da Camera e Senato, ha detto che ci sono quelle problematicità che ci anticipava il questore della Camera D'Ambruoso qualche giorno fa. Problematicità a che? A togliere i vitalizi ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione nel Parlamento. Quali sono queste problematicità? Ecco, anche nel dirlo. Ce lo dirà Cesare Mirabelli alle 8.40. Ora andiamo a leggere i giornali. In questo venerdì 27 febbraio i titoli, alcuni, sono molto diversi. Il Sole 24 Ore si occupa di finanza, corsa ai BTP, cala lo spread, questo è il titolo di prima pagina, mentre è gettonata anche la politica per il Corriere della Sera, scintille tra Salvini e Berlusconi. Per Repubblica, scontro finale nel PD, Bersani attacca Renzi, non sono un figurante. C'è la vicenda, la stampa sulle quote latte, l'Italia promossa solamente a metà riforme più veloci, quote latte si rischia una nuova multa. Mentre per Il Messaggero, e da qui voglio subito partire, fisco, denunce anche anonime contro i corrotti delle entrate, è la stessa apertura del Giorno che titola così: statali, denunciatevi. È interessante, la voglio subito leggere, perché, come racconta pagina 4 Il Messaggero, il fisco ora va a caccia dei corrotti, è apertura totale al whistleblowing. Voi dite, ma che è? Tra l'altro c'è tutta una campagna su internet nata proprio per cercare di dire basta questo inglese, parliamo italiano. Comunque, whistleblowers sono letteralmente i soffiatori, quelli che soffiano nel fischietto, no? E segnalano con soffiate se c'è qualche collega che fa qualcosa che non va. E racconta Il Messaggero a pagina 4, Thomas Garrity, forse è meno famoso di Eric Snower o Hervé Falciani, ma alla Glaxo, gigante farmaceutico, se lo ricorderanno a lungo, perché la soffiata di Thomas Garrity sulle promozioni illegali di farmaci è costata al colosso una multa da 3 miliardi di euro, la più alta mai pagata da una casa farmaceutica. Garrity aveva rivelato le intercettazioni illegali dell'intelligence americana. Falciani aveva rubato i dati dei clienti, e così Garrity, anche lui come Snowden, aveva rivelato queste intercettazioni illegali dell'intelligence che mise in difficoltà la Glaxo. Ebbene, arrivano anche in italiano i whistleblowers, tradotto significa soffiatore di fischietti, nella pratica un dipendente che denuncia attività illecite dell'organizzazione per la quale lavora. Stanno per fare il loro esordio anche in Italia questi whistleblowers, e in uno dei gangli più delicati della macchina dello Stato, il fisco. Ieri il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossello Orlandi, ha diffuso agli uffici una circolare, una lettera per definire una sorta di programma di protezione per chiunque all'interno dell'agenzia intenda denunciare illeciti o anche semplici irregolarità compiute da colleghi o superiori. La soffiata sarà coperta da anonimato. È una misura anticorruzione presente nell'ordinamento sin dal 2012, ma poco attuata, e che ha avuto una spinta con la costituzione dell'agenzia guidata da Raffaele Cantone, cioè l'Agenzia Nazionale contro la Corruzione. E uno dei più soddisfatti è proprio Cantone, che dice: non posso che plaudire a questa iniziativa. Si potrà dunque denunciare tutto, dalla mazzetta al badge non timbrato, magari per gli assenteisti. Tutti i dettagli il Messaggero li mette anche a pagina 5. Per muoversi non servirà avere prove certe, basterà un fondato sospetto, una segnalazione. Arrivano i segnalatori, i fischiatori, come li volete chiamare, i whistleblowers. Anche in Italia c'è il fisco che incita a questo. Ma perché Schettino non sta un po' in silenzio? Ogni tanto apri un'altra pagina di intervista, ecco qua, Marco Imarisio intervista un'intera pagina sul Corriere della Sera o comandante Schettino. Sarò l'unico a pagare e non cerco perdono. La versione di Schettino che parte da che cosa? Dall'Isola dei Famosi, dopo che le Iene hanno fatto questo agguato mediatico, diciamo così, nel quale hanno smascherato un interlocutore, un intermediario che cercava di trattare per 2 milioni di euro la comparsata all'Isola dei Famosi da parte di Schettino. Beh, a parte che Schettino dice basta, non so più come dirlo, io non volevo andare e non ho mai pensato di andare all'Isola dei Famosi, non so più come spiegarlo. A febbraio, col processo in corso, il mio avvocato mi ripropose questa possibilità, ma gli avevo già detto di no. Già ad agosto io gli ho detto che era una cosa immorale e che mi sembrava strano, con la sentenza alle porte, che si preoccupasse di tali faccende. Erano interessati soltanto alla parcella di quella trattativa. Rifiutai ancora una volta. Dietro a tutto questo c'era il figlio del mio avvocato. Sapete che da qualche giorno Schettino praticamente ha dato la colpa agli avvocati anche di questa trattativa. Inizialmente io il mio avvocato lo tolleravo. Poi ha smesso di venire. Il padre si mostrava come un amico, diceva che era per fargli fare esperienza. Che potevo fare? Ero nelle sue mani, ce l'ha con l'avvocato Francesco Pepe. Tanto che a un certo punto Marco Imarisio dice: guardi che se le scelti lei gli avvocati, eh? Cioè non è che sono dei feroci giornalisti che hanno scelto i suoi avvocati. E Schettino risponde: ha presente il proverbio chi è causa del suo male pianga se stesso? Ecco, i miei avvocati, quando vidi che padre e figlio non pensavano a studiare le carte ma a parlare con voi giornalisti, era troppo tardi per tornare indietro. Anche un rappresentante dell'accusa glielo disse: ma non state facendo l'interesse del vostro cliente. Aveva ragione, purtroppo. Insomma, Schettino, per lei è sempre colpa degli altri, chiede Imarisio. Ma chi l'ha mai detto? Io volevo soltanto che fossero distribuite le quote di responsabilità su quanto è successo quella notte. Anche la famosa cena in cui mi ripresero mentre brindavo tutto vestito di bianco. Ero andato a trovare l'editore del mio libro, un libro che prima o poi uscirà. Ho ricevuto un invito, non ho fatto nulla di male, ero una persona in attesa di giudizio, non ero un appestato. Tutto questo è uno schifo indegno di un paese civile. Conclude poi l'intervista a Schettino dicendo: io mi prendo le responsabilità, per me è un lutto indelebile e so che non ci sarà mai perdono per me, ma neppure lo cerco, mi creda. Così o comandante, intervistato dal Corriere della Sera. Oh, invece torna prepotentemente la vicenda della scorta al giuslavorista Marco Biagi, scorta mancata. Per questo Scajola, e allora ministro dell'Interno, e Di Gennaro, allora capo della polizia, sono indagati. Il reato, peraltro, è già prescritto, e quindi anche questa è un po' una follia tutta all'italiana, indagare qualcuno per un reato già prescritto. Comunque sono stati accusati dalla Procura di Bologna di concorso colposo nell'omicidio, perché negarono la scorta sapendo del pericolo. Questa è l'accusa. C'è Scajola, che viene intervistato da Marco Preve su Repubblica. Dice: sì, ci fu sottovalutazione, ma dirlo ora è troppo facile. Riguardo al processo dice: ma guardi, vede quella baracca? Indica una baracca Scajola. Dentro c'è una vecchia anfora che stava lì prima del mio arrivo. Sono riusciti a indagarmi perché l'avrei comprata io da un sub che depredava relitti romani. Insomma, da 5 anni ormai sono bersagliato in un modo che non ha precedenti in Italia. Certo, però, Scajola, lei diede del rompicoglioni a Marco Biagi. Una battuta infelice, e quella battuta infelice va inquadrata in un ambito diverso. È stata, ahimè, estrapolata da un discorso. Non era assolutamente un giudizio e all'epoca su questa vicenda ci furono giochi politici sporchi. Così si difende Scajola, ma tanto se è tutto in prescrizione, io, non capisco. Vi ricordate che abbiamo parlato di abusivismo edilizio giusto qualche giorno fa? Oggi Gian Antonio Stella scrive l'articolo in prima pagina del Corriere che fa vincere a lui l'articolo che ci fa pizzare della giornata. È il premio Mani sul volante se siete alla guida. L'abusivismo edilizio, i condoni, una beffa di 30 anni... C'è una cifra, o meglio due. Sapete quanto lo Stato ha incassato in 30 anni per i condoni? 15 miliardi di euro. Sapete quanto lo Stato ha speso in oneri di urbanizzazione nella stessa cifra di anni? 45 miliardi di euro. Dunque un bidone, scrive Stella. Nel trentesimo anniversario del primo dei condoni edilizi dell'85, i numeri dicono tutto. Sono stati incassati un totale di 15 miliardi di euro e sono stati spesi 45 in oneri di urbanizzazione, il triplo. Un suicidio economico, urbanistico, morale, segnato da impegni solennemente ridicoli. È la fine dell'abusivismo edilizio. Sì, ciao. E questa dichiarazione, scrive Stella, era un'ANSA, un'agenzia ANSA del 21 febbraio 1985. Bettino Craxi, primo condono, mettiamo fine all'abusivismo edilizio. Sì, ciao. Lo Stato in 30 anni ha speso il triplo di quanto ha incassato per i condoni edilizi. E nell'articolo c'è anche grande risalto del libro che abbiamo citato anche in settimana, Le città fallite, di Paolo Berdini, che è stato nostro ospite, l'urbanista, lunedì scorso. Ricordatevela questa cifra, evviva i condoni, incassati 15 miliardi, ne abbiamo spesi il triplo. Alessandro Milan, il presidente dell'informazione. E caro presidente, qui ci sono dei problemi, dei seri problemi tra lei e Salvini, questa è la verità. E come abbiamo detto da qualche giorno, in politica si sta litigando molto, si avvicinano le regionali, quando arrivano le elezioni, comunque qualche impegno elettorale. I partiti litigano, lo so che vi interessa tantissimo, però il dato di fatto è questo. Salvini e Berlusconi hanno litigato, nel senso che Salvini, che sta preparando la manifestazione a Roma domani, attacca e scontro con Forza Italia. Questo è il titolo di pagina 5 del Corriere. Addirittura il Corriere della Sera apre con questa notizia in prima pagina. Insomma, scrive il Corriere che la possibilità che due vecchi alleati possano trovare il punto d'incontro e tornare a correre insieme alle regionali di maggio ancora non è del tutto tramontata, ma la tensione è alta davvero, tanto che Gasparri ha fatto questa battuta: Salvini forse ha le felpe senza il cappuccio, perché con la testa al riparo dall'umido ragionerebbe meglio. Salvini fa un'intervista al Corriere, dice: ma chi ha detto che ho rotto con Forza Italia? Salvini è in Toscana alle prese con l'ennesima giornata per preparare le regionali e dice: qualcuno mi ha chiesto della possibilità a oggi di un accordo politico con Forza Italia. La domanda era: con chi si alleerebbe la Lega se si andasse a elezioni domani? E io ho risposto che la settimana prossima a elezioni politiche la Lega andrebbe da sola. È un fatto. Ma a livello nazionale è una cosa, a livello regionale è un'altra. Capite? Sono i litigi della politica, le solite questioni. Sta di fatto che Berlusconi non l'ha presa bene. Il retroscena di pagina 6 del Corriere di Tommaso Labate racconta che Berlusconi avrebbe detto: ha detto che io e lui siamo diversi? Che con Forza Italia non c'è accordo? Allora non c'è niente da fare, questo Salvini è inaffidabile. E soprattutto si è messo a fare il gioco di Renzi. E pensare che l'ultima volta che ci siamo visti ad Arcore sembrava che fossimo d'accordo, eravamo rimasti che si sarebbe fatto di tutto per ricostruire il centrodestra. Ma come al solito Salvini si è dimostrato un interlocutore inaffidabile. Si è rotto il patto degli spinaci? Questa è la domanda che si pongono alcuni giornali. Mettono anche la foto di Braccio di Ferro. Sapete che era stato siglata la cena con il patto con gli spinaci, il patto degli spinaci. Niente patti, siamo diversi. Salvini gela Berlusconi, questo anche per Repubblica. Tra l'altro per la Lega c'è una vicenda che ormai però finisce nei trafiletti. Vi ricordate quando le vicende della family di Bossi finivano in prima pagina? Adesso ormai sono cambiati i tempi, Bossi è stato archiviato, e allora anche la vicenda di Riccardo, primogenito di Bossi, che non avrebbe pagato per migliaia di euro dei gioielli alla gioielleria Ceccuzzi di Varese, ecco allora che finisce in un trafiletto. Libero, pagina 7. Orologio e gioielli non pagati. Riccardo Bossi, denunciato dal titolare della gioielleria Ceccuzzi di Varese, non avrebbe pagato un orologio e alcuni gioielli per alcuni migliaia di euro acquistati dopo Natale. Glieli abbiamo consegnati sulla fiducia, ma il pagamento non è mai arrivato. vai a fidarti. Che dobbiamo dire? Se si litiga nel centrodestra, si litiga molto anche nel centrosinistra. E qui la spaccatura è oggi segnata da un'intervista di Pierluigi Bersani ad Avvenire, intervista rilasciata a Roberta D'Angelo, che trovate a pagina 9, un'intera pagina in cui Bersani non le manda a dire al presidente del Consiglio Matteo Renzi: in un'ora non si fa il futuro del paese. Oggi c'è questa convocazione di Renzi, di tutti i deputati e senatori del Partito Democratico, e Bersani dice: non ci vado, sono pronto a discutere, ma serve serietà, e quel che si decide si fa. Ci vuole serietà, dice Bersani ad Avvenire, oltre a lealtà e rispetto. Non è serio esaurire un tema come il fisco in mezz'ora. Lealtà vuol dire che quando si discute si rispetta l'esito della discussione. Il rispetto vuol dire che non puoi mandare una lettera correggendo l'italiano ad alcuni che sono perfino professori universitari. Non ci sto. Ma quindi lei non sarà alla riunione? Ma non ci penso proprio, risponde Bersani. Io mi inchino alle esigenze della comunicazione, ma che gli organismi dirigenti debbano diventare dei figuranti di un film, non ci sto. Vogliamo discutere di fisco, del 3%, ma ne discutiamo fino in fondo e quel che si decide si fa. E sulla RAI parliamo delle torri? Io non ce l'ho con Berlusconi, ma tutti vedono che siamo in un duopolio televisivo. Dobbiamo avere un operatore indipendente. Il modello è Terna. Ma per Renzi questo è il mercato? No, risponde Bersani. Il mercato è il luogo delle regole. Se non ci sono, gliele facciamo. E qui arriva la domanda con una risposta, secondo me, incredibile di Bersani. Ed è questa: perché allora non avete fatto in passato una legge sul conflitto di interessi? Risponde Bersani: c'era Berlusconi, ha governato 10 anni. Sì, peccato che ne mancano altri 10 di questo ventennio, ma la legge sul conflitto di interessi non è arrivata comunque. Ma a questo Bersani non risponde. Poi dice: il Jobs Act così è incostituzionale e l'Italicum, la legge elettorale, siamo alla fine della 90, vabbè, l'Italicum o cambia o non lo voto. Insomma, un Bersani che rompe, così pare, su tutta la linea. Sapete come l'ha presa Renzi? Beh, leggete il retroscena di Maria Teresa Meli a pagina 12 del Corriere, o il retroscena di Goffredo De Marchis a pagina 6 di Repubblica. Quest'ultimo, De Marchis su Repubblica, dice: se non si fanno riunioni non va bene, se siamo collegiali e ascoltiamo non va bene uguale. Questa è la reazione di Renzi, che poi aggiunge: ma Bersani che vuole fare? Il Bertinotti del 2015 non ha la forza, non ha i voti, non ha nulla. Questo Renzi su Bersani, questo almeno nella retroscena, che è intitolato L'ira del Premier, Pierluigi come Bertinotti. Insomma, si litiga. Invece sono un po' più riappacificati il Movimento 5 Stelle. Ieri si sono presentati Casaleggio e Grillo da Mattarella. Hanno anche portato Maria Teresa Furia, siciliana, classe 96. È stata scelta in quanto la militante più giovane del Movimento 5 Stelle, 18 anni, di Bivona. È incredibile l'articolo di Annalisa Cuzzocrea, nel quale articolo a pagina 13 c'è scritto questo. Pensate, si presentano al Quirinale, tra l'altro Beppe Grillo ha detto che è una brava persona, una persona per bene, e a un certo punto c'è questa frase: Mattarella ha messo a suo agio la ragazza facendole domande sulla sua vita. E che doveva fare? Pigliarla a schiaffi? Farle un esame universitario, non lo so, farle l'esame di maturità? No, Mattarella ha messo a suo agio la ragazza militante del 5 Stelle presentatasi al Quirinale con Grillo e Casaleggio, addirittura facendo le domande sulla sua vita. Questo su Repubblica a pagina 13. Vabbè, c'è molto sul Sole 24 Ore di Rai, CDA Rai Way. Tutti i dettagli che voglio fare illustrare a Mauro Meazza, al quale prometto niente scherzi oggi, niente scherzi. Buongiorno Alessandro, niente, ho avuto scherzi. Molta solidarietà da amici e colleghi. Tu non sai da quanto tempo stavamo meditando questa cosa, ma da un po' di giorni tu univi le parole, non facevi mai la pausa e andavi subito a traffico. E allora voglio proprio vedere se questa tua dichiarazione di non belligeranza, sì, verrà rispettata. Comunque sappi una cosa, che lo sapevano persone anche come Stefano Elli, giusto per fare un po' il whistleblower, ma giustamente hanno rispettato tuo compagno di merende, nonché fare il senatore come dei Chapter 11, lo sapevano un po' di persone che stavamo tirando questo scherzo, ma vabbè, dai, vai. Va bene così. Allora, Rai Way, che mi va bene perché così posso parlare un po' di inglese, perché mi sento abbastanza ferrato questa mattina, anche nella, diciamo, nella versione un po' verso la Scozia, mi viene così da essere ferrato, non so perché. No, visto che ieri hai gufato, oltre la coppa è fregato, lunga, la coppa è lunga. La coppa è lunga, le partite finiscono al 94esimo, come sappiamo bene, però mica sempre. Rai Way sì, perché oltre alle questioni proprio legate alle decisioni del CDA ci sono le analisi politiche, c'è anche, come hai visto, una richiesta di trasparenza che viene dal fondo dei nostri vice direttori, cioè di Alessandro Platerotti, ma poi c'è il piano di riordino della RAI, di cui parliamo sempre nelle prime pagine di oggi sul Sole 24 Ore. Ti voglio anche dire che poi nelle pagine di finanza c'è questa cosa molto importante delle pagelline personalizzate da BCE per le nostre banche, sì, che sono andate benino, perché in realtà non ancora, anche se dice che si sistemerà, che studierà abbastanza, no, è una cosa molto seria adesso. C'è poco da scherzare, sono i requisiti appunto di solidità patrimoniale fissati banca per banca dalla Banca Centrale Europea. Di tutto questo trovate naturalmente ampio resoconto sul Sole 24 Ore di oggi, insieme, caro Alessandro, a una cosa molto importante: hanno approvato definitivamente il mille proroghe, sono contentissimo. Mm-hmm. È una di perché non condividi l'entusiasmo? Sono entusiasta, ma che scherzi. No, è uno di quei provvedimenti che contiene un po' di tutto. E certo, speriamo di non scoprire anche delle cose strane. Ma questo è sempre possibile. Il mille proroghe è bellissimo, è un mistero senza fine bello, come diceva il poeta. E, tra l'altro, c'è appunto la proroga del regime dei minimi, quello che avevamo prima, poi l'abbiamo cambiato, adesso però teniamo ancora per un po' quello che avevamo prima. E poi ci sono tante altre cose, cioè, ma te le raccontiamo tutte nelle pagine di, dillo tu, Norme e Tributi. Ah, ecco, vedo, sei attento. Questo tanto per... Poi c'è invece altre notizie, come il fatto che lei, signor Italia, sia stata deferita dalla UE per la vicenda delle quote latte, vabbè, ma di questo parliamo invece, scusami, parliamo, ho preso un po' di freddo ieri sera, non so perché, e quindi ho la voce un pochino segnata. Sei andata a San Siro? No. Non farmi domande fai domande sulla mia vita per mettermi a mio agio? No, scusa, non volevo. È quello che, no, diciamo che ho avuto, abbiamo avuto modo di esultare più volte, quindi ci si accontenta così. Beh, insomma, per chi guarda che le partite internazionali sono importanti, so che magari tu hai adesso. Va bene, allora chiudiamo appunto il tema di internazionale. Hai visto che anche il Liechtenstein, il Liechtenstein ha capitolato, c'è l'accordo anche con il Liechtenstein, e quindi i tuoi due urini, dovunque tu li abbia messi, e falli riemergere, santa pazienza, Alessandro. Va bene, Dico. Va bene. È Alessandro Milan, bellezza, e tu non puoi farci niente. È proprio niente, è terrorizzato adesso, abbiamo psicologicamente inserito un chip nel cervello di Mauro Meazza, per cui non farà più mezza pausa di mezzo millesimo di secondo prima di dire la parola traffico. Maurino, stai sereno, allora magari ne studieremo un'altra adesso, però se noi siamo fantasiosi ci inventiamo qualcosa di diverso. Allora, come detto, sul Sole 24 Ore c'è molto di Rai Way, la questione dell'offerta pubblica di acquisto e scambio da parte di A-Towers controllata da Mediaset per le torri della Rai. Trovate i dettagli, tra l'altro c'è anche da dire una cosa, e cioè che il giornale la vede così: la crociata anti-Berlusconi costa 2,2 miliardi all'Italia, nel senso che le riforme della giustizia, lo scorporo della rete Telecom e Rai Way tutte le svolte boicottate sul nascere avrebbero potuto favorire il cavaliere. Per questo motivo, racconta Gian Maria De Francesco, per questo anti-berlusconismo militante, l'Italia è disposta a procurarsi un danno pur di allontanare il minimo sospetto che sia potuto favorire in qualche modo il cavaliere. C'è anche molto, non solo sull'aspetto finanziario della RAI, ma anche sull'aspetto della riforma della RAI. Marco Mele racconta le novità del riordino dei telegiornali a pagina 4 del Sole. La riorganizzazione dell'informazione RAI approvata ieri dal Consiglio di amministrazione, 5 i voti favorevoli, 3 contrari, ha partecipato anche Antonio Verro, che sapete è un po' nell'occhio del ciclone per quella lettera scovata dal Fatto in cui nel 2010 lui probabilmente consigliava a Berlusconi come cancellare o comunque come limitare 8 trasmissioni considerate antigovernative. E allora eccoci qui, Marco Mele: saranno create 2 newsroom in Rai con altrettanti direttori. Nella prima newsroom confluiranno TG1, TG2 e Rai Parlamento. Nella seconda TG3, TG regionale, Rai News e il web. Il piano, rivisto secondo le indicazioni della commissione di vigilanza, la quale il direttore generale Gubitosi illustrerà mercoledì prossimo, non ha subito modifiche sostanziali, è stato così approvato. Ora ovviamente non è detto che sia fatto, ma il primo passo è stato compiuto. Tra l'altro Repubblica fa notare a pagina 4 che uno degli aspetti di questo rinnovamento e riorganizzazione prevede il concorso per i direttori. La riforma delle news voluta da Gubitosi dice che ci si potrà candidare alla guida delle testate giornalistiche. Le redazioni nazionali saranno ridotte a 2, come detto, e ci sarà il concorso per scegliere i direttori. Tra l'altro devo dire, sulla RAI è stato assolto il nostro Oscar Giannino, perché, come racconta Luigi Ferrarella, pagina 8, in un vecchio articolo su Libero con Sallusti e con Enrico Paoli, avevano pubblicato il manuale Cencelli di Viale Mazzini, raccontando i lottizzati della RAI. Per il giudice è circostanza notoria che anche i soggetti più meritevoli in RAI siano avvantaggiati dalle conoscenze in ambito politico, perché sovente per far carriera le sole doti personali non bastano e la meritocrazia è concetto di eccezionale applicazione, riservata a quei rari casi che emergono dal coro per peculiari e incontestabili capacità. Con queste motivazioni della Corte d'Appello di Milano, scrive Luigi Ferrarella sul Corriere, i giudici concordano e assolvono Giannino, Paoli e l'allora direttore di Libero Sallusti al reato di diffamazione, perché avevano pubblicato quello che è stato definito il manuale Cencelli della RAI. Oh, lo dice anche il giudice. La lottizzazione è un dato di fatto. Va bene, va bene. Veniamo a che cosa? La polemica di Libero, sempre sulla questione Rai Way, è questa: per Enel, Eni o Frecciarossa non vale il 51% dopo lo sbarco in borsa delle ex partecipazioni statali? Scrive Libero a pagina 4. La quota del tesoro è scesa ben al di sotto del limite che ora il governo vuole imporre per le torri Rai. Come dire, è un provvedimento anche per Libero anti-berlusconiano. Comunque, parleremo di ISIS noi, perché l'allarme in Italia c'è. Il capo della polizia che dice non c'è mai stato così alto rischio di attentati a me un pochino inquieta. In Gran Bretagna invece è stato individuata la persona che si nascondeva sotto il cosiddetto soprannome di Jihad John, no? Il boia dell'ISIS, colui che ha fatto gli sgozzamenti. E si tratta di Mohamed Enwazi, 26 anni, cresciuto a Londra, anche indottrinato, una persona, pensate, considerata in patria, gentile nei modi, elegante negli abiti, lo sguardo sempre abbassato davanti alle ragazze, laureato in informatica, cresciuto in una famiglia del ceto medio di Londra Ovest. Questo è così l'inizio del profilo di Maurizio Molinari a pagina 3. Della Stampa. Costui è Mohamed Enwazi, nato in Kuwait ma cresciuto a Londra. Tra l'altro, che dire di questo scempio che hanno fatto questi barbuti ignoranti, che hanno distrutto delle statue di una cultura, di una storia centenaria, se non millenaria, dell'antica Ninive, cioè Mosul, oggi in Iraq. C'è questo video in cui questi qui con le palandrane e con le barbe lunghe distruggono le statue antiche. Vi segnalo l'articolo di Repubblica di Paolo Mattier, che non è una persona a caso. Paolo Mattier è un archeologo del Vicino Oriente Antico, è colui che ha scoperto Ebla, uno dei più importanti ritrovamenti del secolo scorso. Scrive a pagina 17 di Repubblica: ormai si è superato ogni limite. Un agghiacciante video di ISIS che documenta la distruzione sistematica di sculture assiree e partiche di Ninive e Hatra, conservate nel Museo Archeologico di Mosul, in Iraq. La distruzione di monumentali tori androcefali dei grandi palazzi reali della cittadella di Ninive. Opere di incalcolabile valore storico e artistico degli anni della massima fioritura dell'impero d'Assiria del VII secolo a.C., del maggior centro del mondo dell'Iraq settentrionale, sono state abbattute e polverizzate a colpi di mazza. Ricordo ovviamente la distruzione dei famosi Buddha di Bamiyan in Afghanistan, risalenti anche questi al VI secolo e fatti saltare in aria dai talebani. Una roba indecente, leggete l'articolo su Repubblica. Ma siamo al momento conclusivo, la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccolo qua al giorno, mezza pagina, vanno a ruba i bracciali, gli orologi, le tazze. Griffate Expo. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, a me se il capo della polizia Pansa dice che mai come in questo momento l'Italia rischia degli attentati, un po' di preoccupazione sale. Per carità, ha aggiunto Pansa, non ci sono al momento elementi concreti, ma è vero che è molto più accentuato ora il rischio di attentati rispetto al passato. Sarà il fatto che, come ha fatto notare Pansa, ci sono situazioni molto complicate, lui ha definito esplosive, in Libia, ma anche in Siria. E forse anche la vicenda di Boko Haram, che stiamo sottovalutando, dice Pansa, in realtà sono in Niger, stanno arrivando al confine sud dell'Europa e non sappiamo dove potranno arrivare. Certo, però le vicende dell'ISIS, soprattutto tutto quello che colpisce anche dal punto di vista mediatico, anche non solo ovviamente, soprattutto il rapimento di diversi cristiani in Siria, ma anche questo effetto mediatico delle statue distrutte a Mosul in Iraq fa molto scalpore. Però vorrei chiedere subito a chi di queste cose scrive, se ne occupa, cioè Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera. Ben ritrovata Fiorenza, ciao. Buongiorno. Quello che è l'allarme di Pansa, è un allarme che dobbiamo prendere come? Ma è un allarme che dobbiamo prendere sul serio, perché come dicevi tu, Pansa è il capo della polizia e quindi sicuramente ha una visione completa della situazione. Quando Pansa dice non ci sono segnalazioni specifiche, vuol dire che noi non abbiamo l'evidenza di qualcuno che è partito dalla Libia piuttosto che dalla Siria, ha fatto un viaggio, cioè non abbiamo nomi, cognomi, perché ci sia una situazione molto in evoluzione, perché poi è un fatto che queste persone siano appunto in Libia, abbiano occupato intere aree della Libia e quindi che siano molto più vicine a noi, a pochi centinaia di miglia da noi. È chiaro. Tra l'altro io ricordo il numero, se volete intervenire, 800 24 00 24. Una cosa però ha detto Pansa, e cioè che ci sarebbero persone che sono andate a combattere, i cosiddetti foreign fighters, e alcuni sono rientrati in Italia. Ecco, questo forse è un allarme più concreto? Sì, esatto. Infatti ieri per esempio un lettore del Corriere mi ha scritto dicendo: ma se sanno dove stanno e li controllano, perché non li arrestano? Allora, il problema è che i foreign fighters fino all'entrata in vigore della nuova legge non avevano commesso alcun reato. Adesso andare ad arruolarsi è reato, partire è reato, e quindi fino adesso non era possibile arrestarli preventivamente oppure fare l'espulsione, non essendo come la legge retroattiva, e quelli che erano foreign fighters fino a qualche giorno fa non avevano commesso. Ma non è neanche detto che uno che sia andato in Siria e poi sia, può darsi pure che sia tornato e non abbia nessuna voglia di fare qualcosa. Il fatto che già il fatto che si sappia che sono tornati e che ritengono sotto controllo, secondo me è abbastanza rassicurante. Ora il problema è capire questo controllo quanto dura e se effettivamente un controllo così stringente come dovrebbe essere, e soprattutto quanti in realtà ne sono tornati, perché poi noi sappiamo che una sessantina erano partiti dall'Italia. Sì, questo sul fronte interno. Io vorrei chiedere a un altro ospite che ritrovo con piacere, è un teologo gesuita, noto islamista, anche molto esperto di Siria, è professore al Pontificio Istituto Orientale, è padre Samir Khalil Samir, che ritrovo molto, con molto piacere. Buongiorno padre Samir, ben ritrovato. Buongiorno a voi tutti. Allora, il fronte interno è una cosa, il fronte estero e le immagini che ci arrivano dall'estero sono terribili, soprattutto dalla Siria, riguardano la comunità cristiana. Però le chiedo padre Samir, sono stati probabilmente uccisi 15 cristiani, titola oggi Avvenire, rapiti molti di più. Dovremmo per questo intervenire? Non c'è il rischio di confondere tutto come un intervento di religione? Un intervento militare non sarebbe il caso. Adesso stanno decimando le comunità, hanno attaccato le comunità che stanno a Hasakeh, nelle parti del Kurdistan siriano, e lì sono da millenni, anche prima del cristianesimo, le stesse comunità assire che parlano la lingua aramaica antica, eccetera, che stanno sparendo, si erano rifugiati lì, molti sono già emigrati in Svezia o in America, ma chi rimane sono fuggiti dalla Turchia parecchi, perché queste zone sono alla frontiera della Siria, della Turchia e anche con l'Iraq. Ma queste persone sono comunità assire, sì? Cioè una volta si diceva nestoriane, cioè sono siriaci di ortodossi che per contraddistinguere dai siri ortodossi hanno preso i nomi dell'antica Caldea, dell'antica Iraq. Allora gli ortodossi si chiamano assiri e i cattolici si chiamano caldei. Ma vengono uccisi a queste culture. Certo, vengono uccisi e perseguitati in quanto cristiani? In quanto cristiani, perché tutto ciò che non è islamico lo stanno eliminando, che siano come si è detto nel museo di Mosul, dove abbiamo visto le immagini, distruggono decine di statue con una ferocità incredibile. Ma in nome di cosa? Ecco, in nome non di è cosa? Islamico. Non è islamico. Perché tutto ciò che non è islamico è inutile e addirittura potrebbe essere dannoso. Come hanno fatto con le Buddha di Afghanistan, lo fanno lì, però lì era un museo cioè che hanno cercato di ritrovare tutta l'antichità di Ninive, di questa grande cultura dell'Iraq, tutta distrutta in pochi minuti. Però lei, padre Samir, ci ha detto l'ultima volta che l'Islam contiene in sé, mi corregga se uso le parole sbagliate, il germe primario, un germe di aggressività, diciamo, nella forma primaria. Dunque, diciamo, però chi sono? Per essere giusto, sì, che c'è nel Corano la misericordia, eccetera, ma c'è anche la violenza. Questo è il dramma dell'Islam, che come hanno detto anche 10 giorni fa gli imam riuniti alla Mecca, hanno detto dobbiamo fare una rilettura, perché come nell'antica Bibbia ci sono delle violenze dovute alla cultura dell'epoca. Sì. E nell'Arabia beduina, eccetera, per sopravvivere la violenza era quasi normale, si attaccavano le carovane per prendere ciò che potevano prendere, e Maometto ha praticato questo decine di volte, come è stato raccontato dagli storiografici musulmani, sì, i primi. Questo non è che sia un modello per tutti i musulmani, questo è da contestualizzare. Infatti, ma vuol dire che alcune persone, in particolare quelli che si rifanno all'ISIS, si appellano a quella forma primigenia di violenza che c'è nel Corano? Non sono solo alcuni, sono milioni, cioè tutta la tendenza che si chiama i jihadisti, i fondamentalisti, sì, tutti quelli che dicono dobbiamo prendere alla lettera ogni parola detta dal profeta e ogni testo del Corano che è increato, che è divino, eccetera, è da prendere alla lettera. Allora, certamente che si può scegliere la parola che mi conviene, mm-hmm, e se sono per la violenza o per la radicalità, loro pensano essere i puri islamici, sì, e combattono gli altri musulmani. La maggioranza dei musulmani non appartengono a questo, certamente. Il 90% non sono per la violenza, questo, ma basterebbe 1%. Questo l'abbiamo detto tante volte. Fiorenza Sarzanini, tornando invece alle questioni, se vuoi, di sicurezza interna, anche molto colpito l'identificazione però in Gran Bretagna di questa persona, per la verità l'ha fatto il Washington Post, di questa persona, questo Jihadi John, no? Che, sì, quello che colpisce è che questa persona nata in Kuwait è cresciuta in Gran Bretagna, di buona famiglia, ha studiato, è laureata. Questo è un po' il profilo del tipico rischio che corriamo, e corriamo evidentemente anche in Italia, non che arrivino dai barconi, come si è detto tante volte, ma che crescano nelle nostre società e che poi possano in qualche modo colpire. Ma sì, questo è già successo per esempio in Francia, è successo a Copenaghen, era successo prima in Inghilterra e Spagna, come vi ricorderete. Sono immigrati di seconda, terza generazione che sono radicati nello stato che li ospita, che però hanno sviluppato, diciamo, una propensione al jihadismo, e quindi sono andati a combattere e sono tornati indietro, oppure si sono addestrati su internet. Io ho detto più volte, io dubito, poi l'evidenza mi smentirà, che l'ISIS possa pensare di mandare i terroristi a colpire in Europa con i barconi. È vero che l'ISIS dice colpite dove volete, come potete, anche con azioni estemporanee, quindi tutto va bene, però appunto mi sembra più facile che possa succedere con qualcuno che già vive qui, che già è inserito nel territorio, e per questo probabilmente è più contro l'Occidente, più contro l'Europa. Cioè, cresciuto proprio nella cultura occidentale, che per questo matura a un certo punto una sorta di cortocircuito, e quella cultura occidentale, esatto, la vuole colpire. Io però vorrei chiedere la domanda a padre Samir, che si fanno moltissimi, e visto che lei conosce molto bene, è anche egiziano, conosce quelle che sono le reazioni in Egitto, da parte del mondo musulmano, da parte di quel 90% che lei ha citato, no? Mettiamo così, c'è una risposta forte per arginare, per contenere, per contrastare quelle derive, sì, dunque, fondamentaliste? È cominciato questo. Il primo ad averlo fatto in modo chiarissimo è stato il presidente egiziano militare nel 28 dicembre al-Sisi, sì, ha chiesto ufficialmente in un discorso a centinaia di imam ed altri, ma soprattutto gli imam di Al-Azhar, sì, l'università più famosa del mondo sunnita, ha chiesto una rivoluzione religiosa. È vero, questo discorso è disponibile, anche lo trovate su YouTube, è disponibile in, esatto, inglese, è stato un discorso per certi versi rivoluzionario. Formidabile, e poi è stato ripreso dal rettore dell'università Al-Azhar, che si chiama Al-Tayyib e che ha studiato, fatto il dottorato a Parigi, alla Sorbona, e lui ha ripreso questo nell'incontro di tutti i capi stati imam organizzato una settimana fa alla Mecca, dicendo dobbiamo adesso fare una rivoluzione religiosa nell'educazione, dai piccoli bambini all'università, alle facoltà di teologia, però, ed è stato sostenuto da altri paesi. Però lei capisce che insomma arriviamo un po' tardi, mi parla del 28, decenni. Mi parla del 28 dicembre, voglio dire nel 2014, la situazione, come dire, i buoi sono scappati, ecco, in alcuni casi, se sì, uso questo. Ma non ci sarà il cambiamento, ci vuole decenni, è già troppo tardi, ma meglio tardi che mai. Cioè, si tratta oggi di preparare il futuro, ed è pericoloso per l'Occidente la situazione attuale, perché come si è visto, lei ha detto bene che anche Boko Haram, ma sono tendenze che non avendo nessun principio etico, che nessuna persona ammette ciò che fanno, sono pronti a tutto. Se muoiono hanno vinto il paradiso, se uccidono hanno vinto sulla terra. Sì. In tutti i casi il fanatismo le spinge a distruggere tutto ciò che non è il loro pensiero. Però mi spieghi, perché vabbè, lei è un religioso e quindi ha detto subito all'inizio un intervento militare sarebbe sbagliato, ma al di là del suo essere uomo di chiesa e quindi ripudiare la guerra, no, sempre io comunque lo penso in quanto cerco di essere realista, perché militarmente il rischio è di distruggere tutta la popolazione. Come si fa? Loro combattono per terra, uno per uno, e sono armati, gli altri no. O allora si vorrebbe un esercito terreno che combatte come loro combattono, ma bombardare è troppo pericoloso per la popolazione locale. Si sono sparpagliati. Questo è il nostro dramma. Questo è vero. Fiorenza Sarzanini, la verità è che pur sempre, e l'abbiamo detto senza creare allarmismi, panico, eccetera, le persone normali vanno a lavorare, fanno le loro cose, insomma, si vive, però dobbiamo abituarci, ormai da qualche anno è così, dovremmo abituarci a convivere con questa sorta di tensione, la vogliamo chiamare così, perenne? Ma questo sì, ma questo poi diciamo che alla fine avviene in tutte le metropoli, in tutte le città dove appunto c'è un multiculturalismo e sono multietniche. Io non credo sinceramente, perché vivere con la paura poi alla fine sarebbe appunto quello che vogliono loro. I fondamentalisti vogliono, esatto, anche questa continua propaganda, questo bombardamento di video, di notizie. Sta molto salendo la tensione. Io credo che dovremmo tutti fare uno sforzo proprio per non vivere con la paura. Assolutamente. Per esempio, Rai News 24 ha deciso con il direttore Maggioni di non mandare più in onda i video che provengono, i video di propaganda. C'è chi ci chiede: come fate a dire escludere che i terroristi possano arrivare coi barconi? Una domanda via SMS al 349-238-6666. No, nessuno lo esclude. Il capo della polizia dice che al momento non ci sono. Appare poco verosimile, ecco, diciamo così, Fiorenza. Ci sono vie più comode per arrivare. Esatto, ecco. No, ma nulla si può escludere. Possiamo anche pensare che invece ci sia un straniero che appunto arriva sul barcone, resta due mesi in Italia, poi si radicalizza, decide di agire. Questo certo, io sto parlando di un'altra cosa, cioè che l'ISIS metta i suoi terroristi sui barconi e li confonda. Anche perché diciamo che hanno strumenti, ma hanno strumenti finanziari e di penetrazione più seri e più sicuri anche per loro di far fare un viaggio in barcone, purtroppo. Sentiamo Stefano da Roma, ci ha chiamato. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, Mila. Dunque, io penso, io non sono particolarmente religioso, mi sento abbastanza ateo. Però ecco, rimanere coinvolto in una situazione che diciamo era già stata trattata da Oriana Fallaci, cioè mi sembra evidente che quello che sta succedendo, cioè obiettivamente parlando, è uno scontro tra religioni, tra stili di vita, tra città, cose. Cioè tra religioni, tra noi e loro, tra noi e l'Islam? Certo, anche perché l'Islam non credo che stia stia prendendo una posizione chiara da questo punto di vista, cioè dicono quelli sono terroristi, sì, vabbè, però non è che li stanno emarginando, li stanno Al-Sisi in Egitto ha fatto anche dei raid aerei quando hanno ucciso 21 certo, egiziani. Cioè, nel momento in cui hanno fatto danni in Egitto, ecco, però la massa islamica, parliamo di 1,5 miliardi, non vede questa reazione. No, è interessante, guardi, le faccio rispondere, guardate che padre Samir è uno dei maggiori esperti di islamismo al mondo, non è che padre Samir dice Stefano che è uno scontro di civiltà questo, e non vede questa risposta massiccia da parte dell'Islam cosiddetto moderato nei confronti di costoro. È vero che è uno scontro di civiltà, adesso non è non direi Islam contro cristianesimo o contro l'Occidente, c'è un certo Islam che è così, questo è vero. Il problema è come uscire da questa situazione. In altri tempi l'Islam non era così, però da una quarantina, cinquantina di anni questo movimento si è allargato, questo fondamentalista. Adesso come farlo morire? Loro, se non avessero i soldi e armi, non potrebbe far nulla. Certo. Dunque, i soldi, le armi provengono dall'Occidente in cambio di soldi, e i soldi provengono dalla stessa terra nostra, l'Arabia, con il petrolio eccetera, ma con l'interesse dei paesi occidentali che sono loro che hanno forati, che hanno tutto. In fin dei conti ho l'impressione che la dimensione economica, che nessuno ne parla, che nasconde tutto, è la chiave. Che non è la radice è nell'Islam e nella mentalità. Sì, ma i finanziamenti, chiaro. Questa tendenza, il fatto che possono avere delle armi quando ne vogliono e soldi eccetera. Certo, c'è certamente una radice, lei dice, culturale, anche religiosa, ma sono poi è la benzina quella che serve, no? I soldi, i finanziamenti. Beh, è un discorso molto interessante e lo riprenderemo. Io intanto vi voglio ringraziare Fiorenza Sarzanini, inviata del Corriere della Sera, e padre Samir Khalil Samir, teologo, gesuita, islamista, professore al Pontificio Istituto Orientale. Dopo la pubblicità, cioè tra 3 minuti esatti, avremo l'ex presidente della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli, è colui che ha detto ci sono criticità nel togliere i vitalizi ai condannati in via definitiva. Ne abbiamo già parlato in settimana. 24 mattino. Siamo qui allora, 8:41 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, come ricorderete certamente, in settimana ci siamo occupati della vicenda dei vitalizi, i vitalizi che sono erogati tra gli altri a ex parlamentari che hanno delle condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione. Il tema, il dibattito in corso da tempo, ci sono petizioni pubbliche, ne abbiamo parlato, ma insomma, togliamoli almeno a questi condannati. Sembra una cosa giusta che un parlamentare che ha avuto una condanna per reato contro la pubblica amministrazione non possa fruire di un emolumento da parte dello Stato. Ora sembrano tutti d'accordo a parole, il presidente del Senato Grasso dice è uno scandalo, il presidente della Camera Boldrini pure. Abbiamo avuto ospite lunedì il questore, uno dei questori, l'onorevole D'Ambruoso, che però ci aveva detto abbiamo chiesto dei pareri giuridici. E questi pareri, alcuni ci hanno mostrato delle criticità nel togliere questi vitalizi. Le criticità credo proprio siano state mostrate nel parere del presidente emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli, che saluto. Professore, buongiorno. Buongiorno, è lei colui che ha evidenziato queste criticità, è così? Il reprobo. No, lei fa il giurista e evidentemente ha trovato dei problemi nel togliere. Che ci aiuti a capire che tipo di problemi ci certamente, sono. Certamente. Anzitutto la disciplina che si immaginava potesse essere introdotta o che era in discussione portava a eliminare il vitalizio, a revocarlo, sì. A non concederlo il vitalizio o la pensione a chi fosse condannato per una pena di 2 anni per qualsiasi reato. Così configurato questo aspetto significa introdurre una pena accessoria che è già prevista dal codice penale per alcuni reati. Una pena accessoria che significa che conseguenziale rispetto a una condanna vi è automaticamente la perdita di un determinato diritto. Ora, le sanzioni penali, anche le sanzioni accessorie, possono essere adottate solamente sulla base della legge, c'è un principio di stretta legalità, e possono essere adottate solamente per il futuro, cioè nel momento in cui commetto il reato già deve essere in vigore quel tipo di e quindi sanzione. Questa strada non era percorribile, questa è una prima criticità, ecco. La seconda criticità è raccordata alla natura di questi emolumenti, chiamiamoli così, sì, vitalizi o più strettamente indicati come pensioni. L'attuale regolamento del Senato prevede che possano essere corrisposti sulla base dei contributi che ciascun parlamentare ha versato nell'arco di tempo nel quale ha svolto la sua funzione, e la disciplina è totalmente assimilata a quella delle altre pensioni. Sì. E qui c'è giurisprudenza della Corte Costituzionale già dal 1966, perciò remota e ripetuta, per la quale si dice che un diritto previdenziale pensionistico non può essere toccato perché è raccordato a una attività che si è svolta. È il famoso diritto acquisito? Una protezione previdenziale. Adesso immaginiamo che qualsiasi altro soggetto, un non parlamentare, abbia svolto un'attività lavorativa per un arco di tempo che dà diritto alla pensione sulla base dei contributi che ha versato. Se viene condannato per qualsiasi reato con una pena di 2 anni, perde la pensione? Lei dice no. Però guardi, noi abbiamo, e queste sono le criticità che lei ha evidenziato e ha trasmesso a Camera e Senato, noi abbiamo avuto ospite il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Ardizzone, che ci ha spiegato come in base all'articolo, credo 28 del Codice Penale, adesso ricordo così a memoria, ha tolto a Salvatore Cuffaro, condannato per mafia e sta scontando la pena in carcere, il vitalizio. E lui ci ha detto, guardate che è l'Avvocatura Generale dello Stato che mi ha dato questo parere, basta applicare l'articolo 28 del Codice Penale. Cioè, di fronte alla condanna si perde appunto qualsiasi diritto, e lui l'ha fatto, e dice, e potrebbero farlo in un attimo il Presidente della Camera e del Senato. Ma per le regioni vi è una disciplina diversa, però forse la Sicilia è assimilabile al Senato, questo ci faceva capire. Lo capisco questo perché lo Statuto siciliano addirittura precede la Costituzione. E tuttavia, pur essendo una regione a statuto speciale, si conforma ai principi fondamentali della legislazione statale, e per le regioni una legge ha stabilito che i vitalizi non possano essere dati in determinate condizioni e per determinate cause. Ora si tratta di vedere qual è la soluzione giusta. Ecco, mi faccia capire, perché lei ha espresso semplicemente le criticità, ha dato un parere da giurista. Si metta un attimo dall'altra parte, cioè alla Camera e al Senato ricevono questo parere e cosa fanno? Possono procedere comunque, ma vuol dire che in base al suo parere uno potrebbe fare un domani ricorso? Certamente ci può essere un ricorso su questo, o comunque soprattutto il Parlamento deve essere attento al rispetto della Costituzione. Se questo tipo di orientamento violasse norme costituzionali, sarebbe appunto opportuno non adottare regolamentazioni che sono in contrasto con la Costituzione. Come ne usciamo da questa vicenda? Perché sa che i cittadini, ci sono raccolte di firme, centinaia di migliaia di raccolte di firme che dicono, per carità, almeno appunto ai condannati per reati della pubblica amministrazione andrebbe tolto questo vitalizio. Ma se si tratta di condanne che non avrebbero potuto dar luogo alla elezione, cioè precedenti e determinanti che determinano la ineleggibilità, allora vi sarebbe un non legittimo esercizio della funzione, sì, ma quindi già la regolamentazione attuale prevede che in questi casi, quando si è dichiarati non eleggibili e si è svolta l'attività di parlamentare, non vengono computati quelle quegli anni, quelle attività nel qui credo che parliamo di altri reati, cioè non so, qualcuno che banalmente ha rubato, ha fatto qualcosa, però riceve ora da tutti noi, dallo Stato, un emolumento, questo è il dato di fatto. Che è corrispondente nella regolamentazione attuale ai contributi che ha versato, né sì. La restituzione dei contributi può sanare, diciamo così, questa situazione. Del resto capisco le reazioni o gli atteggiamenti che ci possono essere nell'opinione pubblica, ma teniamo conto che l'indennità parlamentare e queste prestazioni successive hanno un fondamento costituzionale e non devono e non sono un privilegio per un'attività che viene svolta e che assorbe o dovrebbe assorbire totalmente l'attività della persona. Diciamo che non è un lavoro dipendente, ma è un'attività lavorativa impegnativa, sia pure per una funzione pubblica. No, ma è chiaro. Professor Mirabelli, lei è stato chiarissimo, ci ha spiegato quali sono le criticità che ha riscontrato nel volere eliminare questo vitalizio e le ha trasmesse alla Camera e al Senato. Alla prossima puntata, adesso staremo a vedere i passi, perché politicamente Grasso e Boldrini hanno detto, per esempio, no, per noi è uno scandalo, quindi cioè, questi vitalizi. Per cui bisognerà capire se terranno conto di questo parere, si fermeranno oppure procederanno. Intanto la ringrazio per essere stato con noi, ovviamente, Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale, e andremo a capire anche noi la prossima puntata quale sarà. 24 mattino. Ciao Italia! Siete pronti? Oh, con la sigla celebre di Madonna che ha fatto un bel carpiato all'indietro. L'avete visto il volo di Madonna ai Brit Awards? No, Peter Biscavè mi dice di no. Ma come? Dai, che non riusciva a togliersi il mantello. Un ballerino gli ha tenuto il mantello fermo con il piede. Ha fatto un carpiato tipo la Cagnotto 6.2 di difficoltà con capriola all'indietro. Peccato che era tutto da tre scalini. Vabbè, ma insomma, questo è il nostro Ciao Italia. Ci seguite dall'estero e allora scriveteci 24mattino at radio24.it se ci ascoltate da tutto il mondo. Oggi voglio salutare Francesco. Buongiorno Francesco. Buongiorno, buongiorno, come va? Tutto bene? Tutto bene, tu dove ti trovi? Io a Londra, vivo qua da ormai 4 anni. Ah, bella, fantastica Londra. Quanti anni hai, Francesco? Io 28, come ti ho detto, vivo qua da 4 anni ormai, quindi insomma... Ah beh, hai fatto questa scelta giovane, come mai hai fatto questa scelta? Guarda, alla fine, voglio dire, una delle esperienze che più o meno tutti i giovani dovrebbero fare, insomma, è sempre bello fare un'esperienza all'estero, si impara molto e anche la lingua, poi voglio dire, una di quelle che in Italia l'inglese non si parla molto bene, quindi... Abbiamo Renzi adesso che dice che sta... Abbiamo Renzi. L'hai sentito Renzi in inglese? L'hai sentito? L'hai sentito Renzi parlare in inglese? Va molto meglio, ma insomma. Comunque, che fai tu, Francesco, a Londra? Guarda, io sono un intermediatore aziendale. Sì? Lavoro per una multinazionale inglese. In realtà la motivazione per la quale sono entrato a conoscenza di questo programma è perché una persona con cui stavo parlando, anzi un cliente italiano, mi ha suggerito di entrare in contatto con voi, quindi vorrei anche salutarlo, Luigi, che è una bravissima persona. Beh, grande Luigi, chi è non lo so, comunque va benissimo. È un manager molto importante di una compagnia torinese. Non facciamo. Comunque fai l'intermediatore aziendale. Qual è la cosa più positiva, sì, lo chiedo a tutti, che vedi da lì e che sulla quale magari l'Italia dovrebbe lavorare un po' di più? Guarda, i rapporti sociali sicuramente no, perché in Italia siamo molto più bravi. Questo me l'hanno detto anche altri, sì, da Londra, che sono un po' freddi proprio, come, no? Cold. È un paese nordico, quindi alla fine, voglio dire, anche i caratteri e le personalità sono più o meno, corrispondono a quelle che poi sono anche le temperature qua. Invece che cosa ti manca di più dell'Italia? Guarda, la lista non finirebbe mai, però al primo posto io metterei la famiglia e i miei cugini, che ovviamente sono sempre vicini nonostante la lontananza. Di dove sei tu? Io sono pugliese, quindi anche il mare. Anche il mare, c'è anche lì in Inghilterra, ma vogliamo mettere il mare della Puglia col mare dell'Inghilterra? È un po' grigio qui. È un po' grigio, anche il mare è grigio, anche il mare. Francesco, io ti ringrazio, sei stato simpaticissimo, ovviamente mandiamo un grande abbraccione a Londra, a tutti gli amici londinesi e anche a te Francesco e a tutti gli amici pugliesi. E già che ci siamo, visto che è pugliese, anche la nostra amica Rossella Brescia, ma certo, vedi che alla fine sempre lì torniamo. Grazie, ringrazio Elisabetta Fusconi, Laura Faggin questa settimana con noi e Lorenzo Nespoli e Peter Bescapè in regia. A lunedì 6:30.